Le 10:10. Alla reception con la signora Renzi. No, signora, il numero di Roma è inesistente. È sbagliato. Come? Sbagliato? Ma non è possibile. Guardi, ora faccio il numero che ha richiesto. Ascolti. Attenzione. Il numero selezionato è inesistente. Si prega di consultare il servizio informazioni abbonati. Allora, signora, ha capito? Certo che ho capito, il numero è inesistente. Appunto. Mio marito, come al solito. Come, scusi? Sì, mio marito. Se il numero è sbagliato, è colpa di mio marito, come al solito. Sì, certo. Vuole un elenco telefonico? No, non importa, grazie. Arrivederci, signora. Ah, signorina Jenkins, buongiorno. Buongiorno. Mi dispiace moltissimo, uno stupido errore. Sorry? Just a mistake, un errore. Oh, never mind, here. Gli Uffizi! Scusi? Un momento, prego. Signora Renzi, mi dica. Gli Uffizi, mi può dare il numero di telefono? Voglio prenotare la visita. Sì, signora. Dunque, gli Uffizi. Ecco. Un attimo, ho bisogno di una penna per scrivere il numero. Signora, può usare la mia? Ah, grazie. Molto gentile. Di niente. Allora, signora, è pronta? Certo, sto aspettando. Dunque, 055-29-48-83. 055-29-48-93. No, signora. 83-29-48-83. Ho capito. Vuole chiamare subito? Che ore sono? Le 10:15. No, forse più tardi. Ecco la sua penna, giovanotto, e grazie. Non c'è di che. A presto. Arrivederci. Arrivederci, signora. Dunque, signorina Jenkins, ha il passaporto del signor Wickham? Sì, ecco. Oh, benissimo. E questo è il suo. Grazie. Chiamo subito il signor Wickham. È nella sua camera. Sta aspettando il suo passaporto. Deve partire per Canterbury. Grazie di nuovo. Prego. Mi scusi, per andare al parcheggio in Piazza della Libertà. Piazza della Libertà. C'è l'autobus, il 31. Porta proprio in Piazza della Libertà. Dov'è la fermata? È lontano? No, è a 50 metri. Uscendo a sinistra. Benissimo. Grazie. Adesso andiamo al bar. A bar? But it's only 10 o'clock. No. Andiamo a comprare i biglietti dell'autobus.